Il pesce rosso. Noi siamo dei cacciatori, già l'uomo è cacciatore per se stesso. La coppia mi piacerebbe che ci fosse, però in alcuni casi è un controproducente. Poi ci sono quelli sposati, come nei nostri paesi, sposati con figlie, vanno a messa, mettono la pelliccia la domenica, i capelli, e poi li trovi nel cinema gay. Allora ci vorrebbe una faccia di cazzo come me che se lo vede si alza e le dice: ehi, se sento ancora dire una volta culatone, io ti vengo a sputtanare a casa, ma tu capisci che ci vuole una forza, bisogna essere già... Pesce rosso.